ragazzi del 99. Ritratto di una generazione a cavallo fra due secoli. Di Maria Piera Ceci. Li ho visti i ragazzi del 99. Andavano in prima linea cantando. Li ho visti tornare in esigua schiera. Cantavano ancora. E anche i nostri ragazzi del 99 cantano, come raccontava in questa citazione il generale Diaz. Ve li stiamo raccontando in questo nuovo appuntamento di Radio 24. Cosa pensano, cosa fanno, quali sono i valori di chi quest'anno fa il salto, compie 18 anni e diventa grande. I ragazzi del 99 che hanno avuto ben più fortuna dei loro predecessori, quelli nati nel 1899, che diventarono grandi combattendo per la patria nell'ultima parte della prima guerra mondiale. Anzi, in realtà molti di loro grandi non ci diventarono proprio, visto che furono mandati a morire al fronte. Come diventano grandi invece i nostri quasi o neo maggiorenni di oggi? Ecco il nostro ritratto di oggi. Luca Pinna arriva da Cagliari, ci è venuto a trovare approfittando del suo passaggio a Milano per un'iniziativa che Junior Achievement organizza già da qualche anno. Un'impresa in azione si chiama. Che progetto avete realizzato? Ciao Luca, benvenuto. Buonasera. Negli studi di Radio 24. Che progetto avete realizzato nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro? Abbiamo sviluppato un'impresa che si basa su un'applicazione che permette di ordinare cibo o qualsiasi cosa si voglia consumare. Inizialmente pensata per gli studenti a scuola, visto che viviamo il problema delle code, poi verrà ampliata anche ad altre. Avete lavorato in gruppo? Sì, abbiamo lavorato, ci siamo divisi in vari gruppi nella nostra classe per poi... È stato interessante. Sì, molto. Mm-hmm. Senti, veleggi verso l'ultimo anno del liceo scientifico Antonio Pacinotti. Cominciamo come per tutti dalla tua pagina Facebook. Quanti amici hai? Un migliaio più o meno. Un migliaio, quanti di questi sono veri amici? Molto pochi. E la guardi spesso? Sei uno dei dipendenti dal cellulare come molti della tua generazione? Che rapporto hai con questo telefono? Diciamo che l'uso moltissimo, ma sicuramente non per questi tipi di social. Che social hai? Facebook e Instagram hanno un'utilità relativa. E quindi su quali sei presente? Quasi nessuno in realtà, non mi piace tenermi su queste pagine. Non ti piace mostrare quello che fai, farti foto? In effetti ho fatto fatica anche a farti fare la foto che poi mettiamo sul nostro sito, quindi ti credo. Allora, liceo scientifico, voti, media? Media, una media abbastanza media diciamo. 6, 7, 8? Sì, più o meno. Sul 6, quindi l'abbiamo sfangata, sì. Insomma. Quante ore studi al giorno? Dalle 2, 3, 4 ore al massimo. 4 ore al massimo. E quali sono le tue materie che preferisci? Tra filosofia e chimica. Filosofia e chimica. Invece quelle che non ti piacciono proprio? Fisica. Beh, hai scelto lo scientifico, però questo è grave. Cosa ti piace della tua scuola? Al di là delle materie, perché vai volentieri a scuola, ammesso che tu vada volentieri a scuola? Mi piace conoscere quello che studio, cioè non mi piace tanto studiarlo, ma conoscerlo sì. Mm-hmm. Cioè faticare mentre studi non ti piace tanto, però poi una volta che hai conosciuto queste cose ti piace avere questo bagaglio, sì, di esperienze. E cosa vorresti cambiare della tua scuola? Cosa che non ti piace? Ogni giorno ti alzi, vai lì e dici: se io fossi il preside farei questa roba. Non saprei in realtà, più o meno va abbastanza bene come scuola. Ti piace la tua scuola? Sì. Quindi ti piacciono anche i tuoi insegnanti? Sì. Come si comportano con voi? Cercano di incoraggiarvi, di spronarvi, oppure ogni tanto vi sentite un po' umiliati da questi professori, pretendono troppo? No, il lavoro è tanto, quindi siamo consapevoli che pretendono quello che è giusto pretendere essendo un professore, quindi sono sempre molto disponibili. Ce n'è uno in particolare a cui sei legato che secondo te ti sta dando forse più di quello che sarebbe tenuto a darti come insegnante, che ti sta aprendo un po' la mente, dei nuovi orizzonti? Sì, è il professore che ci ha accompagnato per questo evento. E secondo te che cosa ti sta dando di bello? Diciamo che ci ha aiutato a crescere un po' anche. E come? Diciamo che ci ha dato una visione di maturità che magari non avevamo all'inizio. Mi piace studiare chimica anche perché c'è lui che ci insegna, quindi... Cioè non è ossessionato dai voti e cerca magari di vedere un po' anche al di là dello studio in voi? Vi guarda bene negli occhi? Sì. Questo è importante per un insegnante. Ti piacerebbe dare le pagelle ai tuoi insegnanti? Alcune scuole lo fanno. Non penso di essere abbastanza preparato per poter dare una valutazione ai miei professori. Meglio non fare certi errori. Preferisci rimanere al di qua della cattedra? Sì. You were far away. And I didn't ask you why. What could I say? I was far away. You just walked away. And I just watched you. What could I say? Close am I to losing you? Luca Pinna ha scelto per noi About Today, The National, una bellissima canzone che è stata anche la colonna sonora del film Warrior. Che cosa ti piace di questa canzone? Perché l'hai scelta per farla ascoltare a me e agli ascoltatori di Radio 24? Quando, non lo so, quando capita che sono nervoso magari mi metto questa canzone in sottofondo e mi aiuta a calmarmi, è molto tranquilla per questo... E uno sport, quello della lotta, perché comunque The National e About Today sono la colonna sonora, dicevamo, del film Warrior, in cui viene rappresentata la lotta, che è uno sport un po' violento, un po' molto fisico. Cos'è che ti piace di questo sport? Perché in poi realtà... lo vedremo nel corso della trasmissione, torna spesso. In realtà quello che viene inserito nel film Warrior è l'MMA. Io faccio lotta libera. Tu sei un lottatore. Sì. Che cos'è? Ci racconti? L'antico sport che hanno dato inizio, hanno dato inizio i greci, è nato più o meno nell'800 avanti Cristo. E come l'hai scoperto? Perché in precedenza facevo MMA. Piano piano, facendo questo misto di arti marziali, ho iniziato a fare lotta. Ho voluto sempre iniziare a farla sempre meglio, quindi alla fine ho deciso di fare esclusivamente lotta. E che cosa ti piace di questo sport? Perché è uno sport molto fisico, forse non violento, non è la parola giusta, però insomma di botte se ne danno. Cos'è che ti piace di questa cosa? Più che altro il confronto che c'è tra gli avversari, perché per quanto ogni volta che si perda c'è quasi un'umiliazione che si prende, comunque si tende sempre a mostrare rispetto verso l'avversario, comunque vada all'incontro. Uno sport molto fisico in cui ci si abbraccia, si spinge, ci si butta a terra, però c'è sempre molto rispetto dell'avversario. È questo che ti piace? Sì, sì. Quante ore fai questo sport? Li dedichi molto tempo? Abbastanza, circa 3 ore al giorno. Tutti i giorni? Fai Cerco anche le gare? Cerco di allenarmi tutti i giorni. Fai anche delle gare? Ne ho fatte. Quindi sta diventando per te un impegno sì. importante. Considera ogni giorno come se fosse l'ultimo. L'ora che non speravi s'aggiungerà come gradita sorpresa. Quanto a me, quando vorrai divertirti, vieni a trovarmi. Ho la pelle ben curata. Sono pingue e lucido. Un maiale del gregge di Epicuro. E così adesso scopriamo che saccheggi versi anche da Orazio e le sue epistole. Molto bene, John. Devo dire, Hannibal, anche a nome del resto del gregge, perdonate, del consiglio e della sinfonia, che queste soiree a casa tua sono sempre l'avvenimento più importante dell'anno. È vero, sì, sono d'accordo. Il film che stiamo ascoltando, Red Dragon, è un prequel del Silenzio degli Innocenti di Jonathan Demme, famosissimo, bellissimo, ed è anche un remake di Manhunter, un thriller bello tosto. Che cosa, come mai hai scelto questo film? Perché tende a mostrare cose che normalmente vengono ritenute scorrette, da mostrare magari troppo crude da poter essere viste in televisione con calma, cioè nella tranquillità con cui uno guarda la televisione. E quali sono queste cose? Efferati omicidi o anche mentalità un po' distorte, malate. Io sono il drago e lei dice che sono pazzo. Ha il privilegio di vedere una trasformazione. Senti, vai spesso al cinema? In realtà non tanto. Non hai tempo, con tre ore al giorno di lotta direi che non hai tempo. Hai scelto anche un libro piuttosto complesso, Non so, ma l'hai veramente letto questo libro, Il Castello di Kafka? Kafka è il mio autore preferito, quindi sì. Ti piace molto leggere? Sì. E Kafka in particolare perché, insomma, è un personaggio molto contorto. In questo caso, nel castello, tra l'altro, ci sono tantissimi temi. Mm-hmm. E non è un'interrogazione, quindi non te li chiedo tutti. Però mi ha colpito molto anche il tema dell'incomunicabilità. L'hai sentito vicino questo tema o ci ho visto male? Sì, abbastanza. Anche il personaggio del libro tende sempre a raggiungere un traguardo, poi qualcosa lo riporta al punto di partenza. Lo riporta indietro, quasi fa degli sforzi inutili. Inutilmente. Te l'hanno fatto leggere a scuola o l'hai scelto tu? No, l'ho scelto io. Leggi molto, vai in libreria, te li scegli da soli, i tuoi genitori ti danno dei consigli, come li scegli i tuoi libri? Me li scelgo da solo, cerco di leggere molto ma il tempo scarseggia con la scuola e sport e il resto, quindi... Mm-mm. Ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. I ragazzi del 99. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. stay the hell away from me, you hear? I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Molti la considerano la canzone più triste di sempre, Heart di Johnny Cash, con la voce appunto ruvida di questo cantante, Johnny Cash, che la interpreta in modo davvero molto commovente. Ti ringrazio per averla scelta per noi. Uno che ha avuto una storia piena di dolori, rimpianti, uno che di ferite ne ha avute molte, segnate sulla pelle. Ti recito un passo, tu conoscerai l'inglese, quindi questa canzone, se la senti a manetta, sicuramente la conoscerai. Oggi mi sono ferito da solo per vedere se ero ancora in grado di sentire. Mi sono concentrato sul dolore, la sola cosa reale. Come mai hai scelto questa canzone così difficile, che parla di dolore? Magari anche per quanto riguarda gli adolescenti, una cosa che non è così rara come si pensa. E a te ti è mai capitato di sentirti così male? Non così tanto come quella canzone, però sì. Cos'è che ti fa stare male? Non lo so, magari quando per qualsiasi cosa deludo qualcuno. I tuoi genitori, per esempio? Anche. Hai un buon rapporto con loro? Sì. Mi lasciano molto libero di fare quello che voglio, perché cioè, comunque si fidano, quindi sanno che ho una certa responsabilità, quindi rispettano quello che faccio. Non hai fatto troppe sciocchezze ancora. C'è sempre tempo. Senti, questa canzone è stata usata anche nel trailer di Logan, non so se lo sapevi, il terzo capitolo cinematografico della serie Wolverine, un eroe dei fumetti piuttosto tragico con poteri soprannaturali. Tu, se potessi avere un potere soprannaturale, quale vorresti? Una bella domanda. La forza, probabilmente. Nel mio sport è utile, quindi magari. Questo è quello che cambieresti di te, ma invece se volessi cambiare... potessi cambiare qualcosa che sta al di fuori della tua cameretta, non so, per esempio tu leggi i giornali, ascolti la radio, guardi i TG, ti informi su quello che accade fuori dalla tua scuola, fuori dalla tua camera? Sì, sì. Come ti informi? Internet. Quasi esclusivamente su internet. Quindi non, i media tradizionali per te non significano nulla, i TG, no. Giornali non ci sono a casa tua? Magari leggo su internet le pagine di qualche giornale, appunto. Mm-hmm. Ma mi interessa la politica perché sono un po' ignorante in tema, quindi vorrei un pochino imparare. Anche perché quest'anno voterai? Sì. Quindi bisogna che ti informi. Se ci fosse stata la possibilità, è un dibattito che adesso esiste, di votare a 16 anni, l'avresti già fatto? Non ti sentiresti pronto? Non ti saresti sentito pronto? Non mi sarei sentito pronto probabilmente a 16 anni per votare. Mm-hmm. Quindi meglio aspettare 18. Meglio aspettare 18. È ancora del tempo per informarti. Quindi non ti interessa tanto la politica? Mi viene da pensare che non sei mai stato neanche ad una manifestazione. Esatto. Non ti è mai capitato? Ancora no. Che fai sabato sera? Esco di solito con gli amici, un paio di giusto un paio di persone. Quindi non hai il gruppone di amici, preferisci... No, mi piace più una serata tranquilla. E che fate? Se si può dire. Non lo so, un giro la sera. E andate a mangiare una pizza, vi fate un giro per sì. Cagliari. Ti piace Cagliari, la tua città? Sì, è una bella città. È una bella città, si vive bene? Sì. È una città media, non è piccola, non è neanche grandissima. Ti piacerebbe ad esempio stare in una città più grande per avere più cose da fare o non ti interessa? In realtà vorrei vivere anche fuori dall'Italia. Progetti di fare un salto fuori dall'Italia? Hai già pensato al tuo futuro immediato, insomma, pensiamo magari all'università dopo il liceo, hai già un'idea? Ho due scelte, sono abbastanza simili tra chimica e medicina. Uh-huh. E dove vorresti farlo? Per ora a Cagliari, va benissimo. Per ora a Cagliari, però hai detto che insomma non escludi di andare anche fuori, di mettere il naso fuori dalla tua isola. Per esempio, qual è una città che ti piacerebbe, nella quale ti piacerebbe vivere, magari anche per un po', insomma? Londra. Ci sono stato di già, quindi. Cosa ti è piaciuto? Si passa da una parte della città che è completamente frenetica, tutti che corrono, a una parte in cui c'è la calma più totale. Mi piace passare dall'uno all'altro. Dall'uno all'altro. E non ti è venuto in mente, magari potrei andare a studiarci, a viverci per un po', o magari in futuro anche a lavorarci? Dove ti vedi tu fra 10 anni? Magari, non lo so, in uno studio di ricerca fare dopo la laurea. Il ricercatore in chimica o chimica qualcosa? Chimica o in ospedale da medico. Viaggi molto? Hai parlato di Londra, ma hai avuto altri viaggi recentemente? A Praga quest'anno, Cracovia l'anno prima, in Spagna. Con la scuola, sono viaggi che hai fatto con la scuola? Praga e Cracovia sì. E ti piace viaggiare? Come viaggi soprattutto? Viaggi insomma in aereo oppure vai in ostelli, in alberghi tradizionali? Come ti piace viaggiare? Viaggiare comodo? Sì, preferisco viaggiare comodo decisamente. Dici tu, se si può perché no, insomma. Quante lingue conosci? L'inglese. Ok. C'è un personaggio che ammiri in maniera particolare? Me l'hai confessato, ma dimmelo tu. Jordan Burroughs, un lottatore olimpico, ha vinto la medaglia d'oro olimpica nel 2012. E ti piace perché è un bravo lottatore e ha vinto una medaglia oppure conosci la sua storia, è un lottatore anche nella vita? Diciamo che ha lottato anche nella vita. Perché? Non è cresciuto in un quartiere particolarmente agiato, con magari delinquenza nei dintorni. La lotta l'ha anche aiutato sicuramente a poter magari vivere in un ambiente di rispetto anziché di delinquenza. L'ha fatto crescere, sì. Quindi la lotta anche per te, insomma, questa funzione ti sta facendo crescere? Sì, mi ha aiutato a crescere sicuramente. Uh-huh. Tu sei un lottatore nella vita? Non tanto in realtà. Non ti senti un lottatore? Non... Fuori dalla pedana, non so, siete sulla pedana o qualcosa del genere? Sì, una materassina, sì. Un materassino. Ma per esempio se tu dovessi lottare per qualcosa, per cosa ti batteresti come se fossi sul materassino a fare il tuo sport? Probabilmente per proteggere qualcuno che magari mi sta a cuore o difenderlo in qualche modo. Quindi in quel caso tireresti fuori tutta la tua forza e anche quella che potresti avere se fossi un supereroe. Tu lo sai chi sono i ragazzi del 99 che danno il titolo a questo programma? No. Sono i ragazzi che nel 1899 furono mandati in guerra, la prima guerra mondiale, appena 18 anni, quindi sì. Alla tua età, tu che sensazione ti fa il pensiero che alla tua età uno potrebbe stare sul campo di battaglia? È successo purtroppo un po' di tempo fa, che pensieri ti suscita questa idea? Terrore, esclusivamente paura probabilmente. Assolutamente. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi, Luca. In bocca al lupo a Cagliari, in Sardegna o a Londra, dove ti porterà la vita. Grazie mille per essere stato qui negli studi di Radio 24. E finisce qui anche questa puntata dei Ragazzi del 99. Grazie a Paolo Corleoni in regia. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Maria Piera Ceci. Voglio che l'esercito sappia che i nostri giovani fratelli della classe 1899 hanno dimostrato d'essere degni del retaggio di gloria